spiace che siamo assai poco numerosi. Questa sera si presenta, intanto ringrazio i presenti, ringrazio il pubblico, soprattutto i relatori, e questo che è l'ultimo libro della Sony, pubblicato da Ristretti, ha pubblicato già alcuni mesi fa, ed è l'unico nel 2013 uscito nell'edizione CR Ristretti. Tra poco più di un mese uscirà il libro curato da Camus, cioè Qual è il mio nome di Antonio Giuliano. Ma dietro questo libro di cui oro poi c'è una lunga fila, o una non breve fila di testi, già approvati dal comitato scientifico, che sono in attesa di essere da questo approvati. E io ho detto questo, c'è questa fila di una mancanza di finanze dell'istituto, e quindi ho detto questo con un invito, non per essere troppo numeroso, ma a sostenere l'istituto perché possa, insomma, pubblicare con maggiore sicurezza di quanto è. Libro di Sonia, ora Sonia a Vicenza e soprattutto avendo certo non ha bisogno di alcuna presentazione, in modo assolutamente sintetico, è una punta di diamante del nostro istituto, e con questo istituto ha pubblicato quattro libri, in particolare due delle eccellenti, cioè il Massacro del Grappa e la Legione Italianese. Sono tra quelli maggiormente richiesti da altre città o da altri istituti o da altre riviste del nostro istituto. L'ultimo libro ha avuto tra l'altro una serie importante di recensioni, quella sul Corriere della Sera giunto del primo Franzinetti, e il libro avrà, ecco, credo che anche questo sia un elemento di novità, diverse presentazioni della nostra provincia. Una brevissima presentazione, faccio in ordine alfabetico dei tre storici che stasera parleranno. Io non farò l'elenco delle loro monografie perché sarebbe troppo lungo. Mi limiterò quindi ad accennare ai loro principali campi. Marco Borghi è il direttore dell'IVESER, cioè l'Istituto Veneziano di Storia della Resistenza Contemporanea, un istituto di omologo al nostro, ma certamente l'istituto di quel livello di più attivo, e di recente è andato vita, nel mezzo di un centro. Settembre dello scorso anno il centro studio Fiorentino. Tra l'altro approfitto per fare a Vivesel le condoglianze per la recentissima scomparsa di Renzo Biondo, che è stato uno dei fondatori di quell'istituto, che era presidente onorario dello stesso. E tra l'altro, con Renzo Biondi, Marco che ha scritto un libro, Giustizia e Libertà a Venezia. Che cosa si è occupato Marco Borghi? Lo dico molto brevemente. Si è occupato, per esempio, di bambini e di ragazzi ebrei tra le finanziarie dopoguerra, con il libro di Torno a Scuola. Ha studiato la stampa della RSI e l'operatività delle strutture, delle istituzioni della stessa RSI. Con Giulio Albanese, voi ricorderete che Giulio Albanese è una storica che ha ricevuto un premio speciale in una delle edizioni del nostro premio Gallo. Porta avanti il progetto Memoria Resistente, che riguarda le testimonianze orali o scritte di partigiani e altri resistenti, ma credo che questo progetto, di cui è uscito un libro di fase di continuazione, cioè sia un progetto che sempre di più raccoglie queste testimonianze. È anche scritto su figure rilevanti del mondo operario, successivamente un libro su un dirigente del PC veneziano che è stato anche rappresentante dell'intelligenza veneziana di Anello, Giovanni di Anello. Mimmo Franzinelli ha una biografia vasta che si è cimentata su temi diversi, e quindi io mi limito a quei temi che sono di carattere storico, storico-politico. Lui si è occupato molto sulle origini del fascismo con il volume Squadristi, sul suo apparato repressivo con i tentacoli dell'ora, la soppressione di quella cena di vicino del fascismo, come sono stati i capelli Rosselli, con il direttore Rosselli. Si è occupato della RSI con il libro La Repubblica del Duce, con il libro Il prigioniero di Salò, da Mussolini, Claretta Petracci, della guerra, della guerra di Spie, dell'ultima lettera dei condannati a morte, dei deportati della resistenza, che sono anche importanti per quello che viene messo Rossi, con il carteggio e anche il carteggio tra Gaetano Salvemini e Ernesto Rossi, poi è noto che si è molto morto, che si è del libro Autopsia di un falso, in cui ha identificato il tentativo di Marcello Velluti di spacciare un altro diario di luce. Infine, Santo Pellius, in mia storia contemporanea, che si chiama Padro, si è occupato con due libri della classe operaria, diciamo dall'inizio della prima guerra mondiale alla fine della seconda guerra mondiale. Il primo è intitolato L'Alto Esercito, cioè la classe operaria durante la prima guerra mondiale, il secondo conflittualità operaria tra prima e seconda guerra mondiale. L'altro, il suo principale campo di studio, proprio la resistenza, ha scritto tre monografie, una serie importanti e lunga di saggi importanti che credo molti hanno letto, con la resistenza difficile, storia della italiana, l'esistenza in Italia, storia e critica. Ora abbiamo invitato loro, come ho detto da questo breve scorso, nel loro campo di studi, che si sono occupati della politica sociale italiana, della cui storia sono inserite le vicende di questa formazione, tra l'altro. Io darei subito la parola a Mimmo Franzinelli, anche autore della prefazione, invitando peraltro a comprare il libro, chi non l'avesse ancora comprato. Sì, il libro merita assolutamente di essere letto, ed è una monografia pionieristica. Se diamo uno sguardo retrospettivo alla produzione storiografica, diciamo sui reparti armati della Repubblica Sociale Italiana, troviamo una valanga di studi sulla decima Pax, ma che fu poi editata sulla figura di Giulio Valerio Borghese. Troviamo qualcosa anche che so sulle SS italiane, sulla direzione Vittorio, che sono documenti pubblicati, ma la regione del momento è stata trascurata. È stata trascurata in modo, direi, chiaro e incredibile, perché le sue aree operative sono state variegate dagli Appennini alle Alpi, passando dalle Marche alla Lombardia, al Veneto, alla Lombardia, al Piemonte. E quindi questo lavoro di Sonia, che esce territoriamente per i tipi dell'istituto storico della resistenza, non è assolutamente un lavoro, diciamo, di storia locale, perché coglie una formazione che è stata utilizzata dai tedeschi. E questa dinamica di carattere e collaborazione di tipo viene bene evidenziata nel libro, quindi in varie zone operative. Come mai i motivi di questa trascuratezza? In parte può essere dovuto alla difficoltà di accesso alle fonti, perché per circostanze che hanno una loro logica, l'archivio dell'attagliamento esiste, ma è di fatto inaccessibile, e secondo me è anche contrario alla legge, il fatto che questi documenti non sono accessibili. Allora partiamo dal fondo e poi torniamo all'inizio. La resa dell'Atletamento avviene in provincia di Brescia, in Alta Valle Camonica, che tra l'altro è il luogo dove io abito. Diciamo che si rendono in sostanza, smobitano a Idolo e poi vanno verso il passo del Donato. E l'archivio resta lì. L'archivio resta lì e a caldo, in Valle Camonica la resistenza cattolica ha avuto due grandi figure di ecclesiastici che hanno svolto un po' la figura, diciamo, di morali. Uno dei due, Don Giovanni Spirati, che io conosco abbastanza bene, cosa aveva fatto? Si erano divisi la Camonica e i due preti e avevano mandato partigiani fidati che invece di festeggiare o di sparacchiare sulle colonne di pirata avevano il compito di individuare e prelevare gli archivi. Tant'è vero che l'archivio dell'ex istituto storico della resistenza bresciana, che oggi è la Università di Brescia, viene proprio dal carte come solita da Valle Camonica. Ecco, questo altro sacerdote ha fatto un'altra cosa, si è impadronito, usiamo questo termine, dell'archivio dell'Atletamento, che è un archivio molto ricco, lo ha tenuto nella canonica per diverse decenni e dopo la sua morte è finito a un sodalizio che sta tra Marino e Vienna, un sodalizio, diciamo, di tipo cattolico, che di fatto ha finito di tutte le carte che io sappia non sono mai state viste, sicuramente non sono mai state usate e sono a prego. E forse varrebbe la pena di fare una riflessione qui ad alta voce, se proprio da questo incontro non sia il caso di far uscire un appello per aprire la consultazione di quell'importante archivio, o in alternativa che si chieda alla sovrintendenza regionale della Lombardia di avvalersi del diritto di deposito coatto, che consente, quando c'è un materiale di valenza nazionale, di prenderlo, di fare un registro e di valutare i tapparsi. Per cui, secondo me, è addirittura un reato che quell'archivio sia rimasto dal 1945, inizio maggio, ad oggi. Perché dico che è un reato, mi rendo conto che la cosa è abbastanza forte, ma la documento immediatamente. Nel secondo dopoguerra ci furono diversi processi all'Atletamento per crimini di guerra. Ebbene, ci fosse stato, come doveva esserci, a disposizione della magistratura quel materiale, forse i processi sarebbero andati in modo un pochino diverso. Allora, mi sono tolto questo sassolino dalle scarpe e adesso andiamo. L'Atletamento quindi si è ampliato a lungo di uno studio monografico che adesso finalmente è a nostra disposizione. Ha avuto due interessanti casi di memorialistica, di tiro al piccione e cercare la bella morte, che sono due libri, io credo, notevoli anche dal punto di vista narrativo, oltre che sul piano della testimonianza, che sono stati utilizzati in questo libro. E allora, in carenza o comunque in assenza di una sistemazione storiografica, attorno all'Atletamento si è un po' alimentata quella che viene giustamente chiamata una leggenda nera. Quando mancano fonti serie con dati di conoscenza ci si mette un po', diciamo, con la fantasia. E le fonti che sono state utilizzate in questo libro sono tinte da diverse, in particolare dall'archivio centrale dello Stato, dove effettivamente, come il Presidente lo accennava, c'è è consultabile e fa persino lo scritto autografo di Mussolini, in cui al colonnello Enrico Zuccari testimonia l'Atletamento e la regione del mio cuore, bello, quasi slogan di propaganda. E nonostante l'Atletamento, di fatto, fosse più nazista che non fascista, sicuramente sul terreno operativo, faceva quello che si chiama il lavoro sporco, castellamenti, fucilazioni di sbandati, di remittenti, di disertori. E a proposito delle fucilazioni di disertori, l'episodio per il quale forse si è più parlato in questi scorsi decenni, il fatto cioè che un sottufficiale dell'Atletamento, Giorgio Albertazzi, si sia macchiato di questa esecuzione a freddo di un disertore del tagliamento dopo che il colonnello Zuppe aveva in vano ordinato a un tenente di comandare il controllo d'esecuzione e questo tenente, davvero con un notevole esempio di lealtà e di coraggio, gli ha risposto che in base alla legge di guerra doveva essere questo remittente, questo disertore, doveva essere giudicato da guardia militare, non poteva essere freddato in quel modo. Appunto, Zuccheri diede l'ordine a Albertazzi che lo eseguì, esplose poi il posto di grazia, prelevò il portafogli e non ho capito perché se lo tenne nel proprio bagaglio e poi durante uno dei tanti spostamenti, siamo in Italia, qualcuno si lasciò il portafoglio che detto pure altro. Allora, dicevo, questa dislocazione geografica itinerante, a seconda delle zone, la formazione si impegnava in questo lavoro sporco. Anche in Valle Camonica è evidentissimo il rapporto dove, come tra l'altro, l'accagliamento subì una umiliazione pazzesca, perché loro vengono due volte in Valle Camonica. La prima volta nel, diciamo, fine estate del 1944, ed era un momento delicatissimo per quella vallata alpina. Ed è quello che sapete che è significativo per studiare le dinamiche tra tedeschi, partigiani e fascisti. Perché in Valle Camonica la storiografia, soprattutto diciamo pure di tipo cattolico, ha mitizzato quella che hanno chiamato una zona libera. Zone libere in Valle Camonica non ce ne sono mai state. C'è stata invece una zona franca negoziata tra negoziata oppure forse meglio dire imposta dai tedeschi ai partigiani della Fiamme Verdi in una situazione di stallo, insomma per farla breve, si stabilisce la zona franca e la zona franca vede i tedeschi dare libertà ai partigiani di fare ciò che credono come fascisti, che quindi ce l'avevano male. In quel momento arriva il tagliamento, arriva dal basso regionale, si piazza a Isolo nel cuore della zona franca e vuole utilizzare i metodi che sono propri e che il libro bene illustra. E sapete cosa è accaduto? È tutto che i tedeschi si sono schierati con i consigli intellettori davanti a quella tagliamento e hanno detto Ramos. Infatti li hanno espulsi dalla Valle Camonica e andarono nella zona del nord del lago Liseo dove bruciarono una frazione di Porto Urbino, fucilarono, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, a febbraio, saltò la zona franca perché ai tedeschi non avevano, per loro non c'era più interesse strategico che c'era all'inizio, cioè la Valle Camonica con linee da costruire. E il fatto sta che si interessano e allora Zuccheri porta i suoi uomini e li porta per quella che credo sia una delle rare battaglie campane della resistenza. Assedio dell'altipiano del Monte d'Oro, che è una cosa che conosco. Queste ed altre esperienze sono ricostruite nel libro per la prima volta in una dimensione complessiva. Per cui il mio auspicio è che da questo libro, attraverso in primis la sua autrice, si possa adesso ripartire, perché non lo vedo come un punto di arrivo, ma piuttosto come un punto di partenza, per accedere a queste nuove fonti fondamentali e ad oggi inedite e inutilizzate, rilanciare un progetto di ricerca, potrebbe essere l'istituto a farsi patrocinatore, costruire un collettivo di lavoro e andare a fondo attraverso i documenti originali e autentici per un lavoro di scavo che consente anche di entrare nelle biografie di personaggi abbastanza curiosi. Tanti anni fa, quando studiavo i capellani militari, padre Antonio Intrecciarati, se non voglio nominare, Antonio Intrecciarati, che ebbe una vita lunghissima, fece delle lunghe interviste telefoniche, e che sempre andava orgoglioso di quello che lui e i suoi uomini avevano fatto, e che per essere cappellano del tagliamento entrò in conflitto frontale con molti parroci delle zone cooperative, perché i parroci o erano politici oppure in diversi casi fiancheggiavano la resistenza. E lui antepose, diciamo, il suo ministero militare a quello sacerdotale. Ed è una figura che è stata un po' utilizzata da vari foglietti, diciamo, di tipo religistico della Repubblica Sociale Italiana. Per cui queste altre figure, io sarei molto interessato a trovare in questo libro, perché ci sono anche i loro diari, i loro fascicoli personali, i materiali sequestrati ai partigiani. Per cui l'augurio all'autrice e all'istituto è di partire d'ora in avanti per un lungo cammino che sviluppi, che approfondisca quello che nel libro viene finalmente per la prima volta ricostruito. Spesso hanno un approccio e una prospettiva storiografica, non forte sulle vicende che ovviamente lo storico militare tiene, i conflitti, la composizione della brigata, gli ordini di comando, le strategie, eccetera. Magari un po' così tengo sottoombra tutta un'altra serie di elementi che in una guerra regolare non ci sono e non ci potrebbero essere. In una guerra come fu quella combattuta da tedeschi, nazisti, fascisti, partigiani, e quindi una guerra completamente diversa, in realtà devono esserci questi elementi, perché se no noi non capiamo veramente i due anni. Ed è il merito della Sonia ad avere, come dire, accompagnato il lettore con degli elementi di gradimento che spesso sfuggono per chi si avvicina alla storia militare. E quindi questo, alla fine, secondo me, non è un libro di storia militare. Cioè, ovviamente l'oggetto e il soggetto è un reparto che si muove all'interno di un contesto, un reparto armato, ma ci fa capire molto di più della storia complessiva della struttura sociale italiana, che è quello che noi oggi vogliamo sapere esattamente, perché sulla RSI manca ancora un quadro di insieme completo, proprio in più anni di policentrismo che parlavo prima. Ognuno ha studiato una piccola parte, un piccolo settore, e difficilmente si sono messi in collegamento. E allora la cosa che più colpisce questo volume è la capacità di collocare questo reparto, che, come dicevo prima, vive veramente i 15-20 mesi, collocarlo in un contesto e utilizzando delle nuove prospettive interpretative, ricollocandolo e ridatandolo rispetto, per esempio, a tutta l'esperienza passata del fascismo, sollecitando il lettore a fermarsi sul conflitto, il connubio intergenerazionale, che è un'altra degli aspetti fondamentali dell'RSI, l'incontro tra gli squadristi della prima ora e i giovani, i giovanissimi, addirittura gli adolescenti, che hanno maturato in maniera ovviamente distorta, però una fede nei confronti del fascismo. E soprattutto quello che colpisce è la mobilità dello spazio geografico, che fu la vera arma della repressione della rivoluzione italiana. Dove ci si muove e quando ci si muove si incontrano comunità e nemici sempre diversi. E la violenza è esercitata molto più facilmente se non si conosce il nemico. Anche in reparti come questo, che appunto vengono incaricati formalmente dalla Repubblica italiana, ma in realtà a servizio dei tedeschi, di esercitare un'azione repressiva continua e spietata. E questo è un altro, secondo me, merito dell'autrice, cioè farci capire che quella che è stata definita guerra civile è, vuol dire, il presupposto di determinate condizioni. Laddove un reparto, laddove una forza armata ha dei contatti più ravvicinati, continui, addirittura è contiguo al territorio, come dicevo, l'esercizio della violenza diventa molto più difficile. E l'attaccamento fu questo: intervenire laddove ci sono dei problemi, laddove o laddove addirittura il fronte o il retrofronte, come in ottica, è un territorio in pericolo, agire e questo per dire che l'esperienza del tagliamento e del suo comandante non può essere, secondo me, come diceva Franzinelli, assoggettata a una delle storie che hanno un po' costellato anche la storiografia delle bande della RSI. Questa non era una banda di criminali. Questa era una idea concreta di come la guerra totale che ormai nel 1943-1945 raggiunge il suo massimo apice, doveva concludersi, con quali strumenti. Ed è per questo che credo Mussolini, pur tollerando forse una grande autonomia, vedeva nel tagliamento la realizzazione di quelle forze armate che avrebbero potuto portare comunque la Repubblica Italiana a un equilibrio diverso. Il ridotto della Valtellina, se questi ci arrivavano, il fantomatico ridotto della Valtellina, probabilmente avrebbero combattuto fino in fondo. Ed erano vicini. Quindi, e vado a chiudere, il merito, secondo me, di Sonia è quello di aver, non voglio dire aver utilizzato l'attagliamento per spiegarci altre cose, però attraverso questo libro secondo me noi capiamo molto di più delle dinamiche complessive, complesse e complicate della Repubblica Sociale Italiana, piuttosto che leggendo altri volumi o altri ricerche. Una grande attenzione è sempre stata dedicata alla dimensione introspettiva e psicologica, al ruolo dei riti, al ruolo della capacità di essere protagonisti attingendo a un bagaglio di conoscenze multiplo, vasto, a volte frammentato. E quindi, come si è sollecitato, questo lavoro deve essere ripreso. E questo metodo di lavoro eccellente di Sonia Vittori deve essere ripreso e applicato in tante altre situazioni. Perché così probabilmente la storia dell'RSI tornerà ad essere legittimamente storia del nostro paese. E non storia di un biennio. Perché dentro quei due anni confluiscono una serie di contraddizioni, una serie di aspettative, una serie di risposte che poi continueranno anche nel dopoguerra. Ecco. L'ultimo appunto è, e di questo sono molto contento, che ancora una volta, e lo sottolineo, delle ricerche eccellenti sul fascismo e sul fascismo repubblicano escono dalla rete degli istituti storici della resistenza. L'autrice si sofferma molto soprattutto nella lettura del libro, sulla costruzione mitologica che si è sostanzialmente creata attraverso la memorialistica, con i vuoti e i pieni classici di tutte le memorie sulla Repubblica Italiana, e che è quella che ha dettato un po' la legge negli anni italiani fino agli anni 80, fino agli anni 90, quando un certo clima culturale complessivo del paese aveva sostanzialmente rilanciato, no, il ruolo di questo periodo, il ruolo della Repubblica Italiana sotto altri profili. Allora, ancora una volta, vuol dire che questi istituti della resistenza, non solo perché allora salvarono quelle poche parti che si potevano salvare, tanto è vero che al di là degli archivi pubblici sono gli istituti della resistenza che conservano le carte del nemico e che hanno consentito, come i miei amici di Guerrieri sanno bene, affinché una storiografia maturasse, crescesse, soprattutto negli anni 80, si interrogasse. Quindi ancora una volta io sono felice che l'Istituto di Vicenza, che è un istituto, e lo dico non perché sono ospite, né tantomeno di Algeria, è un istituto che è molto in crescita, è un istituto che si sta rapportando, secondo me, in maniera propositiva e molto corretta con quello che sarà la storia di domani, che è una storia che proprio noi dobbiamo affrontare senza paura, senza reticenze, perché è stato un gioco che purtroppo ha relegato buona parte della storia della resistenza di un angolo di questo paese. Oggi siamo in condizione non di tornare su, ma di riaffermare pienamente quei valori e i valori, secondo me, della resistenza del movimento di liberazione in Italia si affermano attraverso questi studi. Questi sono gli studi che vogliamo che un domani continuino, anche per i giovani, per insegnare che ricerca storica significa soprattutto sofferenza, fatica, che bisogna lavorare tanto per avere una delle di queste risposte. Quindi grazie Sonia, grazie all'Istituto di Vicenza, speriamo di trovarci a breve o anche a mio breve con qualche altro bellissimo volume dell'Istituto San Silvestro di Lavorare. Grazie. Professor Fini. Grazie, ringrazio naturalmente. Prendo il posto che è stato entrato direttamente di Marco Borghi perché sono quelli di l'osservazione sulla mobilità che caratterizza questa legione di tagliamento, condivido tutto quello che hai detto, ma si presta forse anche un'altra considerazione. Se tu devi prendere questa legione che lavora sotto diretto comando dei tedeschi, un po' scherzosamente, anche perché detto così sembra qua non è che ci sia un primo pozzo e poi finalmente arrivano le carte grosse, qua io credo che dal punto di vista che sia uno dei libri più ricchi in assoluto su una, non solo su una brigata, ma in realtà su un pezzo importante della storia dei confronti fra partigiani e forze repressive, dove si ha a disposizione persino la possibilità di vedere tutti i fascicoli personali di buona parte di quelli che sono andati a combattere. Qui abbiamo la corrispondenza, abbiamo non solo l'analisi della letteratura che è stata costruita sopra, ma una ricchissima documentazione di prima mano, e poi tutti gli atti giudiziari che hanno poi tutti gli allegati, le testimonianze, eccetera. Per cui se qualche altro giovane lavoroso troverà carte, benissimo, però per quanto riguarda l'attagliamento mi pare che non restino dei grossi interrogativi da chiedere. E questo per dire quindi in realtà che straordinario lavoro fa quello, non vuole anche dire che gli istituzioni della resistenza non so come stia con la licenza, mi pare che stanno malissimo. Ora giustamente dice Marco, qua bisogna proseguire con questo metodo, questo è il modo di costruire un gran lavoro. Bisogna trovare qualcuno che abbia la follia inspiegabile di dedicare un pezzo di vita importante, le proprie risorse economiche, il proprio tempo, a fare questi lavori. Però questi lavori normalmente si fanno in stati che danno, finanziano, formano, permettono una ricerca di questa intensità, di questo onere, attraverso delle risorse che non vedo in giro, ecco. Le risorse in questo caso si chiamano Sonia Residori, la sua terra di casa, la sua. Ecco, una delle domande che vorrei fare appunto è: c'è un pizzico di follia che si dedicano a questi lavori, ma nel suo caso la cosa è davvero impressionante. Quindi, qual è la genesi, diciamo così? Io dall'esterno posso immaginare che il primo contatto con l'attagliamento che fatalmente tutto studiando questo elemento del grappa abbia creato le curiosità. Comunque poi magari sì, poi magari ci dici di questa, da cosa nasce questa, perché è stato un inseguimento, diciamo così, degli atti giudiziari, delle carte d'archivio di mezza Italia. Io sono, non so se per la mia pigrizia, non lo so, vedo un lavoro che è abbastanza raro in tutta la storia della contemporaneità italiana, anche dal punto di vista proprio dello sforzo che è qui. Detto questo, sinteticamente fra i molti meriti del libro, dal mio punto di vista, il primo è quello di portare consistenti materiali utili a una demolizione di una specie di quel mito di ragazzi di Salò che si è trovato insopportabile, non solo perché era costruito a partire da alcune astrazioni indimostrabili e da alcuni concetti estremamente vaghi, l'amor di patria, l'onore, che di per sé avrebbero giustificato e motivato o reso in qualche modo dignitoso, addirittura in certi casi assimilabili ai valori fondativi della nazione, il fatto che dei ragazzi ingenui si sono battuti anche loro a mano da parte, i partigiani non erano venuti, anche questi non erano certo né matti né sadici, erano dei ragazzi. Ecco, questa invenzione l'avevo odiata da sempre, non solo perché gli è parsa moneta falsa, ma proprio perché questa categoria dello spirito ha cominciato a circolare e a inquinare il discorso pubblico, gli studi, eccetera, a partire da Luciano Violante, quindi, quando era presidente della Camera. Quindi doppiamente mi dava fastidio. Perché dico che ci sono qua molti materiali utili a questa demolizione? Una delle cose che mi succede neanche in minimo nella sua introduzione è che basta misurarsi, per esempio, con la composizione estremamente eterogenea e intergenerazionale di coloro che andranno a comporre questa regione, no? Che in qualche modo è diventato quel simbolo di questi ragazzi della nostra volta. I ragazzi della nostra volta sono comandati da quelle che appunto immaginate le pellacce, in realtà sono le camicie nere, che pensi alle guerre coloniali, dell'Etiopia, dell'invasione dell'Albania, della Grecia, della Russia. E dice Marco, giustamente questo è un libro che ci aiuta a capire di più la complessità dell'RSI. Aggiungo anche sullo sport di quello che dice anche il libro dell'introduzione, che ci aiuta a capire in realtà l'essenza del fascismo, perché in realtà c'è una continuità fortissima nella leadership, quando vengono. Poi certamente c'è un fondersi intergenerazionale, ci sono i ragazzi che vanno a Sarozza, l'infatizzazione continua che ha continuato a bilanciare anche il nostro Mazzantini, ma non è un'avventura di ragazzi, certamente si pesca anche dentro un volontariato in buona parte provenienti in realtà dai licei, dai ginnasi, da gente che ha studiato non solo il Duce, ma Carducci, una specie di amalgama culturale, dove però il mito del sangue, della guerra, dell'onore guerriero, certamente è una molla importante. Ma che si sia trattato di difendere la patria o di ridare dignità alla patria, direi che da questi dell'interpretazione che mi fornisce Sonia è difficile a questo punto sostenerlo. Cioè, sostenerlo per molte ragioni. La principale, che viene qua finalmente documentata in modo cristallino, è che non c'è nessuna autonomia da parte della RSI verso i tedeschi e della legione rispetto ai tedeschi. E questo è a tutti gli effetti un gruppo di combattimento agli ordini comandato direttamente agli ordini, dopo che viene delegato il comando allo Zuccari, però di fatto non è. Questa è una formazione che fa quello che chiamava prima Marco, il lavoro sporco per i tedeschi, per nessun altro. Ora, siccome i tedeschi in questa fase della storia nazionale si sono già padroniti di buona parte dell'Italia del nord e del nord-est, aggregato direttamente al Reich, sarebbe difficile sostenere che l'RSI ha avuto una funzione di interposizione tra l'aggressività tedesca e quindi dei meriti di salvaguardia dell'italianità. Non solo non c'è italianità, c'è cioè una frase che ho parlato nel libro dello Zuppe quando arriva in Valsesia che dice: cancelleremo il Piemonte dalla carta geografica. Che non è esattamente, quindi c'è un continuo passaggio da una retorica patriottata francamente indigeribile, soprattutto perché è continuamente in contrasto con tutto ciò che viene operato. E mio Dio, a chiudere dicendo che l'uomo nuovo, non molto, una parte consistente della documentazione della storia, ricostruisce in maniera dettagliata, secondo me persino troppo, il pensiero e le opere di questo Zuccari, del comandante della Tagliatura. Perché dico un po' troppo? Perché in realtà è straordinariamente ripetitivo, no? Io avrei rinunciato con qualche citazione, perché non aggiunge niente rispetto a una serie di luoghi comuni dove si continua a evocare l'uomo nuovo che viene costruito attraverso questa esperienza militare. Dopodiché questo uomo nuovo è assolutamente identico all'uomo che invano il fascismo ha cercato di forgiare per vent'anni. È credere, obbedire e combattere. La fede, l'obbedienza cieca, la disciplina assoluta. Questo è il nuovo italiano che cerchiamo di forgiare dentro questo tipo di esperienza militare. Allora, se questo è vero, non ci trovo sostanzialmente nulla di nuovo. L'altra grande caratteristica dello Zuccari e di tutti i discorsi che vengono fatti ai soldati e che circolano dentro la legione si riferiscono a questo onore militare. Naturalmente il passaggio fra l'enunciazione continua di ideali di altissima giustizia, onore, coraggio, eccetera, e la quantità straordinaria di uccisioni di civili, no? di stupri, di furti di pollame. Questa è gente che porta via regolarmente il portafoglio a quelli che ammazzano, non per creare la lista di chi è caduto, ma perché non solo rubano i portafogli, i denti, spogliano i canali, eccetera, ma poi si rubano la refurtiva fra di loro, per l'episodio che raccontava all'inizio mismo della Bertanzia, il gruppo nel portafoglio che aveva rubato al cadavere è estremamente indicativo di un clima dove tanto sono alte le continue declamazioni di un rigore, di una disciplina totale, tanto poi contraddette continuamente dai fatti. No? Il comando dice che i tedeschi impongono a Zuccari, che Zuccari ripete, saranno severissimamente puniti tutti i reati di stupro, saranno puniti tutti i soldati che individualmente si impossessano di refurtivo o fanno perquisizioni individuali o personali. Non risulta un solo caso dove questa cosa sia stata perseguita. Lo stupro, la violenza carnale su tutte le donne fermate o per poi liberate o più spesso poi ammazzate è pratica ricorrente. E questo mi dà occasione per l'ultima osservazione, che è questa. Non condivido fino in fondo una enfatizzazione della guerra civile. Io non perché ovviamente non ci siano tutti gli elementi per configurare anche ciò che accade in Italia del 1945 come una guerra civile, ma certamente non è solo questo, no? E questa sembra una presentazione, forse lo sto invecchiando, che mi pare di sentire qualche vecchio degli anni 90, non dire guerra civile perché è come se tu volessi riparare le parti, no? Avevano sostanzialmente torto, ma non del tutto, nel senso che il tentativo molto coraggioso, molto oneroso che la Sonia fa di aprire anche uno scenario interpretativo più largo, sapendosi anche degli strumenti dell'antropologia, della psicologia militare, eccetera, portano molto spesso poi a delle affermazioni che prese in sé non trovo condivisibile, però non in guerra civile il tasso di violenza si innalza. Nella guerra civile non solo lo stupro, ma l'aggressione a cadavere del nemico, perché il nemico non è più semplicemente un nemico, ma è addirittura il cittadino che tu vuoi eliminare dalla tua parte, eccetera, eccetera. Io sono più d'accordo con quel procuratore, anzi con quel giudice che nella sentenza dice che in realtà quello che fa lo Zuccari è semplicemente paragonabile al comportamento delle truppe coloniali. Non è solo quello Zuccari, cioè molti delle milizie fasciste avevano esperienza della guerra antipartigiana in Jugoslavia, avevano l'immagine delle truppe italiane in Etiopia che esibiscono le teste mozzate. Non ci sono guerre civili fra italiani e etiopi, non ci sono guerre civili nelle truppe che fanno quelle cose spaventose in Jugoslavia, in Istria, eccetera, no? Quindi no, capisco fino in fondo che una delle mole e una delle caratteristiche del libro è una presenza incombente e ineliminabile del problema. Qua c'è un di più di violenza rispetto a quello che ci sembra razionalmente comprensibile. Come lo spieghiamo, no? Questo mi pare che sia una questione centrale. Ecco, dal mio punto di vista, la definizione tra quelle che avanzi di una guerra asimmetrica, dove c'è un esercito che pretenderebbe o si pone comunque con maggior forza di un esercito tendenzialmente regolare, e una guerra partigiana determina normalmente sempre questo scenario. Le truppe che restano una divisa si sentono autorizzate a liberare lo spazio, a distruggere il territorio intero, e se quelli non combattono in maniera onorevole. Noi siamo onorevoli perché noi rappresentiamo lo Stato, quindi l'ordine, ma siamo costretti a ricordare il metodo di barbarici che ci vengono imposti da gente che ci spara alle spalle. Questo è un ragionamento però assolutamente ricorrente, per esempio, in vista tedesco, ma stanno certo combattendo una guerra civile. Dico questo per dire che se già nel concetto di guerra civile e le sue interpretazioni antropologiche non si permettono da sé, da sole, di interpretare nel fondo di questo surplus della violenza. Va anche detto, e per questo citavo come i vecchi partigiani, i vecchi dell'anno che si arrabbiavano un po', che cioè, tutti dentro le due parti, dentro questo scontro, man mano che si imbarbarisce, sono portati a disumanare l'avversario, a oggettivarlo, a smembrarlo, a farlo a pezzi. E con una cosa scontata ovviamente siamo tutti d'accordo, però è abbastanza chiaro che nessun milite dell'RSI, nessun soldato tedesco è mai stato minimamente punito o ricoverato, tantomeno fucilato perché aveva stuprato un donno. Ma è altrettanto vero che ci sono stati casi di violenza, di stupro, eccetera, anche da parte partigiana. Però non c'è stato nessun Stato che abbia coperto queste cose. È certo che poi nella costruzione di un'immagine complessiva si è sfumato su ciò che non era vero, ma è il sistema di valori delle due parti che è inconciliabile, perché dal punto di sé l'uomo nuovo che vogliono forgiare Zuccari e Mussolini in questa terra è quello che obbedisce a combattere, tace e stupra e non lo perseguono. Dall'altro punto di vista, dall'altra parte invece si tratta di costruire un'idea di cittadinanza che non è più basata sull'onore guerriero e tantomeno sul virilismo stupratore che caratterizza queste gruppe. Anche in questo caso, quindi, doppio merito aver portato in luce e organizzato questa criminale fattiva e attività non ha portato la violenza. Grazie. Non c'è normale, ho fatto una intervista che vai, affrontato la problematica dei giovani poco certi. Per me era fondamentale questo. In modo proprio. Adesso mi perdo, o meglio, perdonatemi, se no io ne prendo la bontà di un paio di mie esperienze in prima carica. Per esempio, visto il Zarro Rosso, portato su dalla cantina con la testa a colpo, e a picchiare e la prima corpo. E qui ecco anche l'osservazione a casa del centro. Lei espone la proposizione dell'ufficio del futuro, quella che chiamo prima persona e la parte di centro. Io sarei più preoccupata oggi pomeriggio alle 4, quella su un caso editrice filo-nazista di Trieste, ha presentato un altro libro sul tagliamento del nostro malatesta, che, vabbè, evitiamo i commenti, è una casa editrice filo-nazista, con questo ho detto tutto, solo che in un incontro con questo signore mi ha rivelato che lui sta usando del materiale, decine di anni, non so quanto, del processo di Milano del 1952, che risulta scomparso del viaggio tra la procura militare di Torino e l'archivio di Stato di Milano. Sono più di 10 anni che io e Piero Ambrosio di Borgo Sesia stiamo tamminando questi due istituti, questi due enti, alla ricerca di faldoni, atti processuali. Scusi, ma questo era noto. Era noto da molti anni. Che erano scomparsi. Esatto. Ma questo signore dice che lui ha un amico che li ha comprati nel mercatino dell'antiquariato. Allora, quando io gli ho detto che comunque è citazione di merce rubata e che lo aspetto al banco, perché allora sì, se lui loro hanno la documentazione che appartiene allo Stato, che come si arrogano il diritto di rubare la materia solo loro, perché solo loro devono vedere quanto scherziamo. Usano i sistemi che usavano loro. Insomma, da Dio adesso c'è una democrazia e quindi allora sì, allora i carabinieri li manderò fuori perché devono lasciare quel materiale dato al tribunale, all'archivio di Stato. Comunque, effettivamente sì, io sono un po' folle, nel senso che il libro è partito da tanti anni fa, dai miei lavori sulle donne incentive, su questi famosi stupri. Perché sono scesi in sciopero tutti gli stabilimenti dell'Alto Vicentino perché smettessero di stuprare le ragazze. Perché era una pratica talmente diffusa e comune e sembra che quello che ha fatto scoppiare questo caso sia il fatto che è stata violentata una donna incinta, una mamma, una ragazza incinta di 6 mesi. E da lì è nato tutta la mia amicizia con i vari istituti, comunque molto dentro all'istituto mio, questo qua di Vicenza mio, e molto però anche istituto improvviso, perché se ho potuto, se io ho passato tanti giorni delle mie ferie a studiare a Borgo Sesia, a Bergamo, a Brescia, lo devo anche perché l'istituto di Treviso, appunto, almeno che mi incontro con le spese. Biglietti del treno costano, girare costa a Firenze, quanto tempo si va a Firenze. Ecco, quindi devo ringraziare questi istituti in particolare, ma in genere anche gli altri per la collaborazione, per libri che mi regalano, fotocopie che mi fanno avere, o file che mi fanno avere, senza quelli è difficile fare ricerca senza la materia prima. Dopo, dico la verità, finalmente. Per me questi ragazzi dell'accademento, che non sono ragazzi, sono soldati, sono militari, ecco, sto meglio dall'altra parte. Sto meglio fra, forse fra le vittime, fra quelli che subiscono, che non è, è difficile capire la mentalità del perseguito, di chi commette, che sì, ha una fede particolare, ma non ha uno stemma per cui solo quelli sono votati a fare quella cosa. Ecco, io adesso mi occupo della Prima Guerra Mondiale, ho cambiato un po', anche se continuo con la resistenza e sto vedendo appunto il massacro di Pedescara. No. Sì. Sì, ci vuole coraggio anche. Sì, ci vuole coraggio. Però insomma sono cose che bisogna fare. Era impossibile continuare a fare storia anche della resistenza senza aver fatto la storia della regione Tagliamento, che per 5, per 3, 4 mesi è rimasta qui, senza potevano farla loro in maniera onesta, non l'hanno fatta, ci siamo sbarcati noi negli istituti della resistenza, perché l'Istituto di Borgo Sesia ha pubblicato diversi saggi e libri sull'argomento. Perché bisogna fare chiarezza se si vuole andare avanti, fare dei discorsi costruttivi, altrimenti continuiamo a raccontarci storielle che non sono mai successe e allora noi ci sono troppe cose di parte che sono state scritte in provincia di Vicenza sul battaglione italiano. Troppe cose di parte sono state scritte, liste da destra, liste da sinistra. Cioè, l'obiettività è un grande sforzo, perché su di me ho fatto un grande lavoro di... infatti ho ricevuto complimenti anche per la verifica della fonte storica. Non c'è colore politico, però ci vuole uno sforzo che non è semplice di controllo, di digestione. È un lavoro d'equipe. Va bene, ringraziamo tutti i relatori, ringraziamo tutti voi che siete stati presenti, e mi pare che è stata un'interessantissima presentazione, grazie a tutti voi.